peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinas. Oggi ancora parliamo della Scandinavia, della vivacità delle attività che si svolgono in Scandinavia. È un territorio del quale si è già parlato in questa trasmissione, negli ultimi 10 anni più o meno, è sicuramente una dei territori più vivaci da un punto di vista musicale, della sua creatività. Probabilmente ci si è accorti anche in ritardo di questa vivacità, perché tutto sommato penso che siamo anche, perlomeno in Italia, abbastanza viziati da quanto succede nelle proposte dell'etichetta ECM, che peraltro è stata la prima a proporre diversi musicisti provenienti da quell'area. Erano i musicisti che uscivano dall'orchestra scuola, diciamo, di George Russell, penso a Terry Riddell o a Jan Garbarek, ma pure visto che appunto è un territorio nel quale hanno abitato anche per diversi anni molti musicisti di jazz, esiste un filo conduttore piuttosto forte tra la storia del jazz e quello che è la creatività della scandinava. Oggi ascoltiamo due gruppi, in sostanza, perlomeno parliamo di due gruppi. Sono due gruppi che hanno molte affinità tra di loro e che rappresentano anche un mondo particolare, un modo particolare, secondo me la cosa più interessante, di approccio alla musica jazz. E si tratta degli Angles e degli Atomic. Sono due gruppi apparentati, le formazioni sono diverse, ma per esempio la presenza di Magnus Bro, trombettista, che peraltro è ormai riconosciuto come uno dei talenti più interessanti sulla scena attuale, si propone anche in varie altre formazioni. Poi hanno anche, come dire, come affinità il percorso, sono situazioni di workshop, di laboratorio, in sostanza, ecco, per gli Angles, che ascolteremo un paio di cose di questo gruppo, c'è una leadership evidente, dichiarata, che è quella di Martin Kuchen, il sax contralto, un sassofonista che spazia sia nelle esperienze del free, della musica improvvisata, frequentemente, ma anche come sideman in diversi contesti, oltre ad avere appunto una capacità di leadership notevole, e lo dimostra con questa orchestra, questi Angles, che oltretutto cambia come numero di partecipanti a seconda dell'occasione. Sono, almeno conosco, quattro pubblicazioni con questa formazione. Sono ormai diversi anni, sono 5-6 anni che questo laboratorio prosegue, iniziato con una formazione piccola per poi crescere o cambiare nel tempo. La cosa che emerge è un'appartenenza piuttosto evidente a quello che è il linguaggio dell'esperienza del jazz, specialmente dagli anni 60 in poi, soprattutto nel free, oppure il free bop, così denominato adesso, che parte da quegli anni. Sicuramente una paternità fortissima la si avverte in Ornette College. Poi le esperienze sono quelle che hanno attraversato anche la condizione orchestrale dagli anni 70 in poi. Penso per esempio alla Liberation Music Orchestra, oppure anche a, come dire, anche, le, anche a diverse altre esperienze orchestrali come San Ra oppure MacGregor. Ascoltiamo da un disco che è stato anche quello che ha rivelato questa formazione, questa leadership alla critica internazionale, proponendosi come uno dei riferimenti importanti. Insomma, si è capito da questo lavoro che era una proposta importante questa, e si tratta di un disco uscito nel 2010, registrato dal vivo come peraltro anche gli altri, ed è registrato a Coimbra. Ascoltiamo un brano, spesso sono gli stessi brani che vengono proposti in concerto dagli Anglis, ma vengono poi riarrangiati in maniera diversa. Thank you. In questo disco registrato a Coimbra, gli Angels sono in sestetto, quindi una formazione abbastanza contenuta rispetto a quella che poi metterà insieme Martin Cook, il leader e sassofonista che abbiamo ascoltato, tra l'altro ottimo assolo, poi Magnus Bro alla tromba, per citarli, Mats Aleklint al trombone, Mattias Stall al vibrafono. Questa è la formazione di base, che diciamo è la, sono i pilastri della formazione, poi anche, ma anche il contrabbasso di Johanna Bertling alla batteria, Kiel Nordson, poi viene sostituito successivamente, per esempio in quello che ascolteremo adesso. È un disco strano quello che ascoltiamo, è appena uscito per l'etichetta Clean Feed, che peraltro è la, l'etichetta con la quale hanno inciso i, gli Angels dall'inizio. E questa, quest'ultima operazione, quest'ultima produzione è un long play, quindi sono due facciate registrate dal vivo, anche, anche queste, e con una formazione di nonetto, una, sono nove elementi, quindi si aggiungono a quello che abbiamo ascoltato, si aggiungono un altro sax, che è quello di Erik Agdal, poi al pianoforte si aggiunge un pianoforte, Alexander Zetson, e poi anche una cornetta in aggiunta a quella di, alla tromba di Magnus Bro, la cornetta di Goran Keifes. E, ecco, viene sostituito appunto, come dicevo, alla, alla batteria, il batterista che ascoltiamo qua è Andreas Wertling. Andreas Wertling, che peraltro è anche un collaboratore frequente di Gustafsson e di molti del, diciamo, di coloro che ruotano intorno a questa visione espressiva che è fatta sia di strutture composte che di improvvisazione, quindi con una vitalità espressiva veramente notevolissima. Ascoltiamo un brano da questo lavoro, che peraltro i brani che contiene questo, questo long play sono tutti contenuti come composizioni anche in altri lavori precedenti. Rimane appunto una visione diversa, che è quella della, della performance nel momento in cui viene celebrata, cosa che accade frequentemente, proprio la percezione di una performance costante che diventa una sorta di laboratorio per questi musicisti. Ascoltiamo uno di, dei brani appunto di questo lavoro. Thank you. questa era la parte di un brano, una suite, perché così è costituito un po' il concerto degli Angels, e dell'ultimo lavoro uscito per l'etichetta Clean Feed, un long play intitolato In Our Midst. È una produzione curiosa, ma anche in questo caso una conferma rispetto alla qualità delle capacità espressive di questa formazione, che cambia come numero di componenti, ma che riesce sempre ad esprimere una vitalità orchestrale e anche una concezione orchestrale estremamente vitale. Un percorso, come dicevo all'inizio, un percorso analogo e comunque anche apparentato da alcuni musicisti in alcune occasioni, è quello degli Atomic. Atomic hanno una storia più vecchia alle spalle, iniziano dal 2000, la prima incisione del 2002. È anche abbastanza complesso capire chi è il leader di questa formazione, però è una leadership probabilmente condivisa. È un quintetto che nasce su un trio precedente. Il trio era un trio classico di pianoforte, basso, batteria, dove il pianoforte era quello di Howard Wick, pianista estremamente capace, che si è ascoltato anche poi con Vandermark in una formazione in trio con Chad Taylor, che ha dato prova di straordinari livelli. Poi Ingebreit Hagenflaten al contrabbasso, che è un sideman europeo molto richiesto, anche che lavora quindi molto in molti progetti, e poi la batteria di Paul Nielsen Love è probabilmente il leader o il motore propulsivo di questa formazione. È batterista notevolissimo, anche lui sideman in frequenti contesti diversi, penso alle esperienze con Gustafsson, ma anche con Vandermark, come dicevo prima. Vandermark peraltro è forse il musicista americano che maggiormente ha compreso la vitalità di questo mondo europeo, che si muove anche poi nell'ambito in Polonia, Ungheria, e che produce musicisti di alto livello, e che peraltro ha dato anche la possibilità in qualche maniera a Vandermark di proporsi poi con una sua orchestra, con una sua formazione orchestrale che si può allineare su questi linguaggi, su questo tipo di intenzione musicale, questo equilibrio tra parte composta, parte improvvisata, e questa radice fortissima in tutta l'esperienza della musica jazz dalla nascita del free. A questo trio che dicevo, appunto di Dick Hagenflaten e Nielsen Love, si aggiungono la tromba di Magnus Bro, che abbiamo ascoltato anche nella formazione precedente, e il sax, le anze, diciamo, tenore soprattutto e soprano, di Fredling Lingsbix, nome abbastanza complesso da pronunciare, anzi improbabile, e che dimostra delle notevoli capacità. È una formazione ben consolidata, oltretutto l'esperienza condivisa per tanti anni comporta una capacità di interplay perfetta e anche una condivisione degli obiettivi musicali che si propongono. Hanno al loro attivo una quantità ormai enorme di produzione discografica, spesso anche loro sono in occasione di concerti, non sempre, e comunque sono già più di una dozzina le pubblicazioni di questa formazione, tutte peraltro a dei livelli decisamente elevati, dall'ottimo al notevole, insomma. Ascoltiamo un brano due brani dal primo disco uscito al loro nome, anche per vedere che esiste una coerenza nel tempo, negli ultimi 11-12 anni, una coerenza che viene confermata appunto anche nella struttura delle loro composizioni. Ascoltiamo un paio di brani da questo Fit Music del 2002. Mm-hmm. Thank you. Questi due brani che abbiamo ascoltato sono presi da Fit Music degli Atomic, il primo disco pubblicato da questa formazione, da questo quintetto, che si è costituito con una sorta di workshop e che dal 2000, quindi sono già più di una dozzina d'anni, sta elaborando e proponendo musiche, concerti, ma anche a proprie composizioni. Sono diversi dischi con diverse composizioni anche diverse tra di loro, quindi non è che si ripetano. La formazione è rimasta la stessa. Il ruolo della batteria mi sembra abbastanza evidente, molto intenso, molto teso nel sostegno, negli equilibri che propone la musica espressa poi dai vari musicisti. Recentemente è uscito un nuovo lavoro, sempre per la loro etichetta, si chiama Zestland Recordings. Tutti i dischi sono usciti per questa etichetta, che ha praticamente raccoglie un po' tutte le espressioni di avanguardia di quell'area del centro Europa e del nord Europa, e appunto recentemente è uscito questo Here's All in the Mountain. Ascoltiamo anche da questo nuovo disco un paio di composizioni che sono sempre firmate dal collettivo, quindi anche dalla firma sulle composizioni non si riesce a capire esattamente chi può essere il leader di questo gruppo. Comunque ascoltiamolo. Thank you. questo era l'ultimo lavoro del gruppo Atomic, un gruppo scandinavo, con un quintetto scandinavo, con Magnus Bro alla tromba, Howard Dick al pianoforte, Inge Bright Hagenflatten al basso, Paul Nielsen Love alla batteria e poi Frederick Lindquist ai sax. E il disco intitolato There's a Hole in the Mountain, uscito recentemente, anche questo, anche in questo caso, conferma le grandi qualità di questa formazione europea che da tempo sta proponendosi con coerenza, proponendo proprio anche una visione molto legata a quello che può essere lo spirito del jazz, quindi una sorta di laboratorio costante e di confronto costante tra i musicisti. Era l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che le informazioni relative ai dischi che abbiamo ascoltato e anche l'ascolto dell'intera trasmissione lo potete ascoltare in podcast nella sezione playlist del nostro sito radiocittafugico.it. Questo è tutto, salve, alla prossima. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Titoli in ribasso e articoli in saldo.